tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito del circolo www.giordanobrunomi.wordpress.com con motore di ricerca. Per il calendario anticlericale 2022, info@sicilialibertaria.it. Viva Giordano Bruno, viva il libero pensiero, sia ad una scuola laica, sia all'ora alternativa no ai crocifissi nei luoghi pubblici. Sbarrato l'ingresso al Duomo di Torino per il non vedente e il cane guida, gli animali non possono entrare. Il cieco è stato quindi costretto a chiamare i carabinieri e quindi hanno garantito il suo diritto di entrare a visitare il Duomo di Torino. Disgrazie clericali, scoppia incendio in una parrocchia di Monza, invece di invocare i santi e le reliquie, hanno chiamato i pompieri. Eresia, alla scoperta della cittadina candidata a capitale della cultura 2024 e dei suoi costumi occitani, e dal manifesto del 30 dicembre, valli eretiche e partigiani. Saluzzo fra storia e rilancio. In queste terre gli eretici patirono dure e sanguinose persecuzioni e furono costretti a fuggire, pensiamo ai Valdesi, ai Catari, eccetera. Le vicende di questi eretici trovano un parallelo in storie a noi più vicine, come la Shoah, il genocidio armeno, eccetera. Nelle mie ricerche su internet ho trovato questo prete cattolico bavarese Hans Schmidt, 1881-1916, che è stato l'unico caso di prete assassino che è finito sulla sedia elettrica. Execution by electric chair. Lo trovate su Wikipedia. Aveva ucciso l'amante che era rimasta incinta. Missing Ohio mom Summer Inman found dead in church septic tank. Un ministro di culto protestante condannato all'ergastolo per aver assassinato la nuora in Ohio e averne messo il cadavere in una fossa biologica dietro la sua chiesa. E ci ricorda un caso avvenuto a Parma più di un secolo fa, che anche lì il prete uccise l'amante e la mise nella fossa biologica. È un'abitudine dei preti. Cronaca vera del 28 dicembre, aberrante caso di crudeltà clericale. Nella casa per disabili Suor Rosina la Grua, su un terreno di proprietà delle suore figlie della croce, i poveri invalidi ivi ricoverati, anziani, dementi, eccetera, erano sottoposti a durissime percosse e sevizie. Caso Emanuela Orlandi. Le nuove rivelazioni apriranno il caso. Dalla criminologa Roberta Bruzzone su Giallo, un settimanale di casi criminali. La Chiesa è un'organizzazione criminale. Rete l'abuso, come il pesce. L'indagine Vaticana in Spagna puzza dalla testa. 20 dicembre 2021, retelabuso.org. Durissime critiche contro la pedofilia ecclesiastica. Mostre, l'inquisizione fra roghi di carne umana e tortura. Esposti documenti originali sui processi agli eretici. A Palermo, 4 dicembre 2021, da ANSA. La storia dell'Inquisizione raccontata con libri antichi, documenti e manoscritti, eccetera. La setta delle madri che costringevano i bimbi a piangere. Erano della setta dei nuovi cristiani. Ecco che in nome di Gesù Cristo, come al solito, si commettono atroci violenze. E sono state arrestate perché obbligavano con la violenza i figli a queste preghiere continue. Destra clericale. La parabola di Monsignor Negri dall'amicizia con Papa Ratzinger alla guerra a Papa Francesco. Da Fatto Quotidiano del 3 gennaio. Questo Monsignor Negri, appena morto, è un esponente della destra clericale. Si ricorda che si impicciava nelle nomine degli arcivescovi di Bologna e Palermo, voleva saperne più del Papa, ed era un fanatico Novax. Sul settimanale anticlericale Left del 6 gennaio abbiamo vari articoli anticlericali. A pagina 14, il lato oscuro delle religioni, dal nuovo rapporto sulla libertà di pensiero nel mondo realizzato da Humanists. E quindi ci sono discriminazioni contro i non credenti. Il rapporto dimostra che quasi ovunque non sono rispettati i diritti degli atei, degli umanisti e dei non religiosi. Articolo a firma di Leonardo Filippi e Federico Tulli della redazione. L'Italia è l'unico insieme alla Spagna tra i grandi paesi a tradizione cattolica in cui lo Stato non è ancora intervenuto con una grande inchiesta sui preti pedofili. L'apostasia è considerata un reato grave in 15 paesi, in 10 tra questi è punibile con la morte. Ricordiamo, tutti questi paesi in genere sono paesi filoamericani, americani con la K. Alla ricerca della laicità perduta di Roberto Grendene, dell'UAR di Bologna, adesso segretario nazionale, secondo il rapporto sulla libertà di pensiero, il nostro paese è al 40° posto. Sappiamo come i cattolici ci discriminano. Il lungo declino dei monoteismi, con una foto di Odi Freddi. Nella realtà dei fatti, la religione cattolica ha fatto da freno allo sviluppo del pensiero democratico e scientifico europeo, senza andare a ripescare Bruno o Galileo, eccetera, eccetera. La religione cattolica pretende ancora oggi di frenare lo sviluppo del pensiero. Evviva, sono spariti i Papa Boys. Da Varsavia un commento contro il governo reazionario clericale locale. Nella terra di Wojtyla la Chiesa perde fedeli. Speriamo che continui così. Poi su per questa settimana Left l'abbiamo citata, anticlericalismo popolare, rubata la campana del 1600 della chiesa del Borgo Millenario di Camerata in provincia di Roma, furto su commissione, da virgilio.it 2 gennaio 2022. Vandali, dal presepe sparisce Gesù bambino, prealpina del 30 dicembre 2021, Cittiglio, furto notturno della natività allestita dai residenti del rione Valcuvia. Dal sito uar.it, buone novelle laiche. Una nuova sentenza della sezione civile della Cassazione impone alle suore Clarisse Cappuccine di Napoli di pagare la tassa rifiuti. Anche loro producono rifiuti, quindi non si capisce perché non debbano pagare la tassa. E non vogliono pagare. Poi, da settimanale anticlericale Cronaca Vera del 28 dicembre, un blasfemo articolo contro addirittura Gesù Cristo. Gesù sarebbe stato creato, basandosi sulle vicende di due persone davvero esistite. Gli autori del Sacro Testo avrebbero ripulito le biografie di molte note figure per tramandarne un ricordo positivo. Ecco quello che non ci dicono, sconcertanti rivelazioni. Un volume recente indaga e mette in luce i misteri. L'autore del testo sostiene che il cristianesimo è nato dallo scontro tra due civiltà. Insomma, Dio non c'entra, è tutta una bufala, è tutta un'invenzione. Gesù è un personaggio letterario e quindi preso in prestito da Giovanni Battista e da un certo Isa. Quindi è tutta una truffa, è tutta una balla, come da sempre noi anticlericali diciamo. Su Rai Storia del 2 gennaio un documentario sul film Il nome della rosa, tratto dal famoso romanzo di Umberto Eco, e le mostruosità clericali, no? Preti che si avvelenano fra di loro, rogo di eretici, carceri clericali, catene, repressione, mostruosità varie. Bene, saluti a tutti, alla prossima puntata. Tutti i bambini.